sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Almeno 9 morti e una quarantina di feriti per le esplosioni in due hotel a Jakarta, in Indonesia. La Farnesina conferma nessun italiano fra le vittime. Lacrimogeni e bastoni contro i manifestanti a Teheran. La polizia disperde i sostenitori di Moussaoui durante la preghiera del venerdì. Rafsanjani dice: la crisi può essere risolta solo con l'elezione di un presidente voluto dal popolo. Auto contro una fermata dell'autobus a Roma sulla via Cassa. Uccisa una donna, travolte anche due persone. Il Papa ha operato per una frattura al polso e caduto durante la sua vacanza in Val d'Aosta. Il metodo Brunetta contro l'assenteismo, un calo del 38% in un anno, annuncia il ministro. Ciclismo, Tour de France, la sfida delle Alpi e la maglia gialla, Rinaldo Nocentini è a rischio. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. In primo piano in questa edizione del GR Extra Large gli attentati di Jakarta, capitale dell'Indonesia, dove questa mattina, in Italia era ancora notte, ci sono state esplosioni in due hotel di lusso, il Marriott e il Ritz-Carlton, molto frequentati dai turisti. In studio con noi c'è Cristina Balottelli per tutti gli aggiornamenti. Cristina. Sì, buongiorno. La Farnesina, che ha escluso che tra i morti nei due attentati di Jakarta ci siano italiani, ha detto che sui feriti sono ancora in corso verifiche per accertare che non ci siano italiani. C'è invece tra le vittime anche un terrorista suicida. Al momento il bilancio è di 9 morti, tra cui un neozelandese e 42 feriti, tra cui alcuni stranieri. Le due bombe sono esplose quasi simultaneamente negli hotel di lusso che si trovano nell'esclusivo quartiere di Koningan, nella capitale indonesiana. Prima in un caffè del Marriott e due minuti dopo nel ristorante del Ritz, dove i clienti stavano facendo colazione. La terza esplosione, invece, che ha ucciso due persone, è stata il risultato della batteria difettosa di un'automobile. Disinnescato invece un terzo ordigno inesploso al Marriott. L'Indonesia ripiomba così nell'incubo terrorismo a soli 9 giorni dopo le presidenziali e questo è l'attacco più violento dal 2005. La dinamica farebbe pensare al modus operandi di Al-Qaeda, che in Indonesia è legata all'organizzazione Jemaah Islamiyah, responsabile degli attentati di Bali nell'ottobre 2002, 202 morti, di un'autobomba contro lo stesso Marriott nell'agosto 2003, 12 morti, e di un attacco esplosivo contro l'ambasciata australiana a Jakarta nel settembre 2004, 10 morti ed è tutto. Grazie Cristina Balottelli, noi ora ci colleghiamo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Ugo. Spesso ti sentiamo a proposito di Medio Oriente, ma naturalmente tu sei anche un profondo conoscitore dei paesi dell'Estremo Oriente, ma soprattutto appunto del terrorismo. Diceva la nostra Cristina Balottelli, al momento non c'è ancora una rivendicazione, ma la pista più seguita porta alla Jemaah Islamiyah, organizzazione appunto considerata legata ad Al-Qaeda. Ci puoi spiegare un po' in che cosa consiste, chi sono questi della Jemaah Islamiyah e se tu ritieni effettivamente che le cose stiano così? Beh, Al-Qaeda e tutti i suoi addentellati, cioè tutti gli aderenti alla rete, appunto, come appunto quelle in Indonesia e in tantissimi altri paesi, non ha bisogno di fare rivendicazioni, la firma è implicita. Ed è come sempre un colpo di politica interna, perché appunto è stato detto ci sono state le elezioni pochi giorni fa, elezioni che si sono svolte anche piuttosto democraticamente, e immediatamente Al-Qaeda a suo modo partecipa alle questioni di politica interna. Riguarda anche la visione globale di Al-Qaeda, perché infatti cerca sempre degli obiettivi dove ci possono essere degli occidentali, in modo da ricordare agli occidentali che se non ha più la capacità logistica di colpire a casa nostra, in Europa, ancor meno in America, la capacità logistica nei paesi dove hanno dei grandi santuari, paesi praticamente musulmani come appunto l'Indonesia, come l'Algeria, cercano comunque sempre obiettivi dove possono colpire degli occidentali. Quindi anche se tu dici le ragioni sono legate probabilmente alle elezioni presidenziali, si cerca comunque di colpire insomma obiettivi internazionali? Beh, in un paese come l'Indonesia, come del resto anche in Algeria o in Medio Oriente, quando Al-Qaeda colpisce anche per affermare un suo ruolo politico in quei paesi, perché appunto Jemaah Islamiyah, o come anche in Pakistan, ancora più in Pakistan come in Afghanistan, fanno parte anche del gioco politico oramai. Però sicuramente la visione di Al-Qaeda è sempre ampia. Noi naturalmente non ci possiamo illudere che il conflitto sia finito, la guerra con Al-Qaeda sia finita. Abbiamo un'amministrazione americana che usa metodi diversi politici con quei paesi che aiutano il terrorismo politico. Ma Al-Qaeda è un'altra cosa, la lotta contro Al-Qaeda, nonostante l'amministrazione Obama, anche con l'amministrazione Obama, continua con lo stesso modo sostanzialmente militare e soprattutto di intelligence. Abbiamo raccontato infatti anche nei giorni scorsi, insomma, l'offensiva che c'è stata in alcune zone del Pakistan contro appunto alcune zone controllate da Al-Qaeda e così via. Ugo, dall'11 settembre in poi, insomma, fortunatamente non abbiamo dovuto assistere ad attentati epocali come appunto quello delle Torri Gemelle, però una serie di attentati più o meno gravi, come dicevi tu giustamente, in paesi magari dell'est del mondo, e che colpiscono obiettivi soprattutto occidentali. Quindi questa è la nuova strategia d'Al-Qaeda? Ma è la strategia d'Al-Qaeda dal giorno 2 dopo l'11 settembre, quando ovviamente i servizi segreti occidentali si sono messi in moto, sono stati capaci di colpire in Europa, in Inghilterra, in Spagna pesantemente, ma dopodiché non sono stati più in grado di farlo. Il conflitto, la guerra contro Al-Qaeda, contro il terrorismo estremista islamico, è una guerra difficile, anche perché non è fra eserciti, come è ovvio, ma soprattutto perché non sapremo mai quando l'avremo vinta. Dovremo sempre stare, soprattutto con i nostri servizi di intelligence, molto molto attivi. E dopo 25 anni dall'attentato precedente, forse potremmo dire che la guerra d'Al-Qaeda è stata vinta. Grazie Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Noi adesso da Giacarta, dall'Indonesia, più tardi tra l'altro naturalmente parleremo di quanto sta accadendo in Iran, ma ora per un momento torniamo in Italia, perché a Roma questa mattina c'è stato un grave incidente stradale, un'auto è finita contro una fermata dell'autobus e purtroppo una donna è morta. Ha perso il controllo della sua autovettura, investendo in pieno alcune persone alla fermata dell'autobus in via Cassia, all'altezza dell'Olgiata. Erano passate da poco le 7 del mattino, quando il conducente di una Golf grigia, che viaggiava in direzione centro, ha tentato il sorpasso di un'altra vettura che stava svoltando a sinistra. L'impatto ha fatto sbandare l'auto, che si è andata a schiantare contro la colonnina della fermata, dove ad attendere i mezzi pubblici c'erano una decina di persone. Una donna filippina di 48 anni, che da tempo lavorava come Golf in Italia, è morta sul colpo, travolte anche altre due persone, entrambe straniere, di cui una in gravi condizioni. Illeso il conducente della Golf, che sottoposto ai primi controlli non risulta né ubriaco né sotto effetto di sostanze stupefacenti. L'Agenzia Comunale dei Trasporti Trambus ha assicurato che la fermata di via Cassia, che si trova su un marciapiede, è sicura, anche se non è la prima volta che si verificano incidenti gravi in prossimità di fermate sulle strade consolari e nelle zone più periferiche di Roma. Il 27 febbraio del 2008, maxi tamponamento a Fiumicino provocò la morte di 5 persone. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Il Papa, operato al polso per una frattura questa mattina, è caduto mentre si trovava in vacanza in Val d'Aosta. Marco Ferrando, che cosa è successo? Buongiorno, come accennavate, piccolo imprevisto per il Papa nella sua vacanza valdostana. Infatti il pontefice questa notte è caduto nel suo chalet di Le Combes, sembra che sia scivolato e proprio scivolando si è fratturato il polso destro. Questa mattina la visita in ospedale, all'ospedale Parini di Aosta, dove è arrivato poco prima delle 10, non prima comunque di aver celebrato la messa come tutte le mattine. Certo, un Papa all'ospedale fa sempre notizia, ma da subito si è capito che non si trattava di una cosa grave. Infatti Benedetto XVI è entrato nel pronto soccorso con le proprie gambe. Immediate le radiografie, da cui è emersa una piccola frattura scomposta al polso destro, di cui il personale sanitario ha deciso di operare un'operazione di routine condotta peraltro in anestesia locale. Nel pomeriggio il Papa sarà dimesso, tornerà alle Combe, anche se pare scontato che dovrà tenere il gesso per i canonici 40 giorni e poi sottoporsi alla riabilitazione. Davanti all'ospedale una folla di alcune centinaia di persone, infatti la voce subito si è sparsa per Aosta, e come dicevamo stasera il Papa dovrebbe tornare alle Combe, da dove domenica dovrebbe partire per scendere a Romano Canavese, paese natale del cardinale Bertone, per recitare l'Angelus. Certo, l'incidente potrebbe costringere a qualche ritocco d'agenda, un'agenda molto scarna per i prossimi giorni, anche se finora comunque tutti gli appuntamenti restano confermati. Grazie Marco Ferrando. Noi adesso ci spostiamo in Campania, terzo colpo consecutivo in 3 giorni delle forze dell'ordine contro il clan dei Casalesi. I carabinieri di Aversa hanno arrestato oggi 7 persone. Si tratterebbe di esponenti della fazione del clan ancora guidato da Francesco Schiavone, detto Sandokan, che è da anni in carcere in regime di 41 bis. A proposito di criminalità organizzata, c'è da segnalare la riapertura delle inchieste sulle stragi di mafia del 93. C'è un filo che porta dal fallito attentato della Daura contro Giovanni Falcone allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine, fino a Via D'Amelio a Palermo e poi a Via dei Gergofili a Firenze e a Via Palestro a Milano. Quel filo si chiama patto tra cosche criminali e Stato, tra alcuni boss di Cosa Nostra e agenti e funzionari infedeli dei nostri servizi segreti. Per questo motivo sono state riaperte le indagini sulle stragi del 92, quelle che costarono la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, gli uomini e le donne delle scorte e per gli attentati del 93 a Roma, Milano e Firenze, che colpirono beni artistici e vittime innocenti. Non ci sarebbero soltanto Totò Riina, Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca e i corleonesi dietro queste stragi. Le cosiddette entità, quelle emerse più volte nelle indagini di questi anni, ora avrebbero contorni più definiti. I contorni di un agente dei servizi con il volto deformato, presente alla Daura, Capaci in Via D'Amelio. Ti stanno dando la caccia da alcuni giorni. Potrebbe forse svelare il racconto indicibile dell'attacco di Cosa Nostra alla democrazia. Questo era un servizio di Daniele Biacchessi. Ora siamo al ciclismo, l'appuntamento col Tour de France. Il nostro Rinaldo Nucentini è sempre maglia gialla, ma oggi c'è una tappa difficile. Cosa ci si aspetta allora, Piero Augusto Stagi? Si ci aspetta che Rinaldo Nucentini riesca nel miracolo e riesca magari a portare questa sera a Colmar la maglia gialla e quindi potrebbe aggiungerne una in più, andare a quota 7 e quindi tenerla perlomeno fino a domenica. L'impresa non è facile, ci sono 5 colli da superare, da Vettella a Colmar, 200 km di strada, il gruppo è da poco partito alle 12.25 il via, con in prima linea proprio Rinaldo Nucentini, che è un po' diventata la mascotta di questo Tour de France, il personaggio più simpatico e poco conosciuto di questa Grand Boucle. Da segnalare semplicemente che l'Astana di Contador e Lance Armstrong ha dovuto rinunciare a una pedina importante della sua squadra. Levi Lepainer ha dovuto abbandonare la corsa per una frattura al polso. È tutto da Colmar. Grazie per Augusto Stagi. Noi ora sentiamo dove ci porta oggi il nostro gastronauta Davide Paolini. Per una bella serata di venerdì sera, magari con il calore che è cresciuto rispetto a queste ultime giornate, vi consiglio un posto davvero bello, bello perché si è in aperta campagna al confine con il bosco, quindi si può anche mangiare fuori quando il tempo lo permette. Ebbene, il posto è a Proserpio e il locale si chiama Inarca, Trattoria Inarca. Si possono mangiare per esempio dei maccheroni grezzi, grezzi nel senso di pasta naturale fatti in casa, con un ragù di salsiccia e di albicocca, sì, lo ripeto, proprio di albicocca, e magari con, come antipasto si può mangiare una testina alla cipolla. E poi per secondo si può variare tra lo stinco di maiale al forno con patate oppure anche ancora con polenta. Buona serata dal gastronauta. Siete ancora in compagnia del GR Extra Large. Nella prima parte abbiamo parlato degli attentati che si sono verificati questa mattina. In Italia era ancora notte a Giacarta, capitale dell'Indonesia. Ci sono state due esplosioni in due hotel di lusso, frequentate soprattutto dai turisti. 9 i morti, una quarantina di feriti. La Farnesina comunque ha confermato che non c'è nessun italiano fra le vittime. E poi abbiamo ancora parlato dell'incidente questa mattina a Roma. Un'auto che ha perso il controllo, la persona che guidava appunto quest'auto ha perso il controllo della vettura e ha investito alcune persone ad una fermata dell'autobus sulla via Cassia. Una donna è rimasta uccisa, sono state travolte anche altre due persone. E poi abbiamo parlato del Papa che è stato operato questa mattina per una frattura al polso e caduto durante la sua vacanza in Val d'Aosta. I medici dell'ospedale hanno detto poco fa che sperano di dimetterlo entro questa sera. Ma ora parliamo di Iran, perché ci sono nuove manifestazioni di protesta contro la vittoria alle ultime elezioni, quelle del 12 giugno, di Ahmadinejad, che lo ricordiamo è stato confermato presidente. Oggi, durante la consueta preghiera del venerdì, anzi la preghiera del venerdì, si è trasformata per i sostenitori dell'altro candidato Moussaoui in occasione per un'altra protesta, e la polizia naturalmente ha represso anche questa volta la manifestazione. Lacrimogeni e bastoni contro gli studenti. Così la polizia iraniana sta reprimendo la manifestazione scoppiata questa mattina all'Università di Teheran a sostegno del leader dell'opposizione Mousavi. Molti dei manifestanti, secondo testimoni, indossano fasce verdi, il colore che ha caratterizzato la campagna elettorale dello sfidante del presidente Ahmadinejad. Gli agenti hanno trascinato via almeno 15 manifestanti. Gli incidenti si sono verificati mentre l'ex presidente Rafsanjani stava pronunciando il sermone per la preghiera del venerdì. L'ex presidente ha lanciato forti critiche al regime. Dopo le contestate elezioni presidenziali del 12 giugno, ha detto, si è creata in Iran una situazione amara. Il paese sta attraversando una crisi che può essere risolta con l'elezione di un presidente che sia voluto dal suo popolo. Nel suo sermone, Rafsanjani ha detto anche che deve essere creata un'atmosfera di libertà in cui ognuno abbia il diritto di esprimere le sue critiche. La preghiera diffusa dalla TV di Stato è stata interrotta dai sostenitori di Mousavi, che hanno cominciato a gridare slogan in favore del leader dell'opposizione. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. Buongiorno ad Alberto Negri. Ci senti, Alberto? Ecco, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che in questo momento si trova all'aeroporto di Kabul di ritorno dall'Afghanistan. Ti avevamo infatti sentito nei giorni scorsi a proposito anche dell'attentato che c'era stato nei confronti dei nostri militari ad Herat. Ma naturalmente tu sei un grande esperto di Iran, ti consultiamo sempre in queste occasioni. Prima sentivamo nel servizio della nostra Valentina Furlanetto che l'ex presidente Rafsanjani ha detto che la crisi può essere risolta solo con l'elezione di un presidente voluto dal popolo. Alberto, come interpretare queste parole e soprattutto che peso possono avere in quanto sta accadendo negli ultime settimane a Teheran? Ma il fatto straordinario è che ci sia stato Rafsanjani a condurre la preghiera del venerdì, perché la preghiera del venerdì non è che uno, anche se è un ayatollah, sale sul palco e tiene il suo sermone. Chi guida la preghiera del venerdì viene direttamente nominato dalla guida suprema, cioè da Ali Khamenei. Quindi perché Rafsanjani oggi sia andato lì e abbia potuto dire queste cose che ha detto, lo ha fatto perché Khamenei glielo ha concesso. Cioè è stato Khamenei a decidere che Rafsanjani oggi dovesse andare lì e probabilmente sapeva anche che cosa avrebbe detto Hashemi Rafsanjani in questa occasione. Parole molto dure, parole che certificano però un dato di fatto, quello di una Repubblica Islamica divisa in due, spaccata in due, con due volti, con due facce. Una Repubblica Islamica, l'Ahmadinejad, con delle tentazioni autoritarie molto forti, una Repubblica Islamica alla Mousavi, alla Khatami o alla Rafsanjani, come la vogliamo chiamare, che vorrebbe avere più spazi di libertà. Come potranno convivere insieme? Oggi Khamenei, facendo parlare Rafsanjani alla preghiera del venerdì, in qualche modo ha fatto una concessione volendo dimostrare anche lui che in fondo non è contrario a che loro esprimano le loro idee. Bisognerà vedere se però questa coabitazione può coesistere o meno. Ecco, una coabitazione che appunto solo il tempo ci dirà se può resistere o meno, ma nella sua preghiera del venerdì, tu lo sottolineavi, è stato appunto naturalmente deciso che fosse Rafsanjani a condurla ed era la prima volta che veniva condotta da Rafsanjani dopo le elezioni del 12 giugno. In questa appunto preghiera del venerdì Rafsanjani ha detto anche che diciamo l'organismo, il Consiglio dei Guardiani, che avrebbe dovuto poi insomma riesaminare i risultati elettorali, non ha usato nel miglior modo possibile il tempo supplementare che gli aveva dato la guida suprema, appunto Ayatollah Khamenei, per esaminare le denunce di brogli. Insomma, ci possono essere conseguenze concrete, proprio reali, dal punto di vista del riesame del voto, o è una cosa che dobbiamo mettere definitivamente da parte? Ma lo stato delle cose non credo, bisognerebbe vedere ancora più a fondo dentro i meandri delle segrete stanze del potere iraniano. Ma la cosa che mi colpisce di più è notare che ancora una volta avevamo molta gente, molte migliaia di persone in piazza. Cioè da una parte abbiamo Rafsanjani, Mousavi che vanno a fare la preghiera del venerdì, ma dall'altra parte abbiamo ancora molti manifestanti nelle piazze. Questo significa che siamo in una situazione anche un po' imprevedibile. In fondo tutti prevedevano che Ahmadinejad avrebbe vinto facilmente le elezioni e non è stato così. Pochi prevedevano che ci sarebbero mai state delle manifestazioni le più grandi dai tempi della rivoluzione. pochissimi prevedevano in realtà che queste manifestazioni potevano continuare nonostante la repressione, e adesso le vediamo ancora. Quindi siamo entrati in una fase di forte turbolenza e di incertezza, dove probabilmente dobbiamo riflettere sul fatto che l'Iran è nato da una rivoluzione e potrebbe essere di nuovo un movimento di massa che può cambiarlo. Insomma, ci potremmo aspettare ancora delle sorprese dall'Iran. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Passiamo ora alle questioni di politica interna, anche di politica istituzionale. Terremo conto delle osservazioni di Napolitano. Così Silvio Berlusconi si è espresso dopo i rilievi del Quirinale sul pacchetto sicurezza, rilievi considerati politicamente incisivi dal presidente della Camera Gianfranco Fini. Nessuna frizione con il Colle, assicurato il Premier, ma la lettera con la quale il Capo dello Stato ha accompagnato la promulgazione della legge sulla sicurezza solo qualche giorno fa, considerata da alcuni osservatori irrituale nella forma, è stata letta da molti come la premessa di uno scontro che si va profilando su altri temi caldi, per esempio le intercettazioni, ma anche il lodo Alfano. Su questo tema Maria Luisa Pezzali ha intervistato il costituzionalista Valerio Onida. Ma non c'è nulla di irrituale in questa iniziativa del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato ha il potere di rinviare le leggi alle Camere per una nuova deliberazione, ma è un potere che gli esercita in piena discrezionalità. Può, d'altra parte, rinviare per qualsiasi motivo, sia di costituzionalità che di merito. In questo caso il Presidente della Repubblica evidentemente non ha ritenuto di esercitare questo suo potere e invece ha ritenuto di esplicitare, di esternare in questa lettera al Presidente del Consiglio le sue perplessità sul contenuto della legge. Esiste nella nostra Costituzione la promulgazione con riserva, per così no, dire? No, non esiste. La promulgazione è un atto del Capo dello Stato che appunto esterna la volontà legislativa e non può essere fatta con riserva. La legge o viene promulgata o viene rinviata alle Camere. La lettera del Capo dello Stato ha un semplice valore, come dire, politico, nel senso che manifesta le sue idee, le sue perplessità sul contenuto della legge, ma non ha nessuna incidenza giuridica né pratica sulla efficacia della legge stessa. Quindi lei non è d'accordo con chi sostiene che le riserve su una legge si debbano tradurre unicamente nel rinvio alle Camere? No, il Presidente della Repubblica può sempre. Il Presidente della Repubblica nel nostro sistema è quello che è stato felicemente definito un magistrato di persuasione e di influenza, cioè un titolare di una carica che può far pesare la sua autorevolezza, le sue idee nei confronti degli altri, ma non ha poteri deliberativi spesso, se non evidentemente in certi campi ben determinati. È passato qualche giorno dall'inaugurazione della prima palazzina del Polo della Cinematografia Lombarda. Per il leader della Lega Umberto Bossi si è avverato il sogno di una cinecittà a Milano per raccontare la storia della Padania. Un altro leghista eccellente, Roberto Castelli, viceministro, ha definito insopportabile il fatto che in tutte le fiction si parli romanesco. Ma che cosa ne pensa il mondo dello spettacolo di questa diatriba fra accenti e dialetti? Sentite un po'. Senti un po', sei di servizio qui te? Me pare. È molla. Romano, eh? Perché? Perché l'italiano in fanteria e il romano in fureria. Coglioli, certo! Per la cronaca sto posto non l'ho scelto io. Due maestri del cinema italiano, Vittorio Gassman e Alberto Sordi, nella Grande Guerra, capolavoro di Mario Monicelli del 1959. Sono due commilitoni sul fronte italiano, un milanese e un romano. E proprio i due dialetti sono in questi giorni al centro di una discussione nata attorno all'inaugurazione della Cinecittà milanese. Ma il dibattito sembra soprattutto politico. Per Diego Abatantuono, attore nato e cresciuto a Milano che deve parte della sua fortuna al personaggio del Terruncello trapiantato al nord, non c'è nessuna rivalità fra attori romani e attori padani. Sono assolutamente contrario al non utilizzo dei dialetti, che sia milanese, romano, siciliano, veneto, in particolare per quello che riguarda il cinema, perché denotano un realismo che altrimenti non sempre c'è. Tutto ciò che è apertura ben venga. Un parere condiviso anche nella capitale, dove sembra che non si avverta alcuna minaccia linguistica nel mondo del cinema, il regista e sceneggiatore romano Enrico Vanzina. C'è un paese composito in cui hanno diritto ad essere presenti sullo schermo tutte i talenti talvolta sono romani, talvolta sono napoletani, talvolta sono milanesi. È una polemica che non ha senso per chi fa questo lavoro, non mi sembra neanche il momento, ecco. Dobbiamo pensare all'Europa, se non ancora a pensare alle regioni italiane, insomma è ridicolo. Milanese o romanesco, insomma, per gli addetti ai lavori poco importa. Lo scontro di opinioni avviene su un altro palcoscenico. Irene Privitera, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Ci sono scontri a Teheran fra la polizia e i sostenitori di Moussaoui dopo la preghiera del venerdì. Migliaia stanno manifestando nella capitale iraniana. L'ex presidente Rafsanjani, durante appunto la stessa preghiera, ha detto: la crisi può essere risolta solo con l'elezione di un presidente voluto dal popolo. E ci sono stati almeno 9 morti, una quarantina di feriti per le esplosioni in 2 hotel di lusso a Jakarta, in Indonesia. Si tratta di alberghi frequentati soprattutto da turisti stranieri. La Farnesina comunque ha confermato che non c'è nessun italiano fra le vittime. Questa mattina un grave incidente stradale a Roma sulla via Cassia. Un'auto è finita contro una fermata dell'autobus. È stata uccisa una donna, 2 i feriti. Il Papa è stato operato per una frattura al polso. È caduto durante la sua vacanza in Val d'Aosta. Forse sarà dimesso dall'ospedale già questa sera. E per il ciclismo, al Tour de France, abbiamo parlato della sfida delle Alpi. La maglia gialla di Rinaldo Nocentini sembra essere a rischio, almeno per la tappa di oggi. Ora parliamo invece dell'assemblea programmatica della CGIL, che si conclude oggi a Chianciano in Toscana con l'intervento del segretario generale Guglielmo Epifani, che dovrebbe parlare a momenti. Ieri c'è stato un cordiale faccia a faccia fra Epifani e il ministro dell'economia Giulio Tremonti, ma c'è da segnalare anche la rottura della CGIL sulle proposte di riforma pensionistica avanzate dal governo. Paolo Piacenza ha intervistato la segretaria confederale di CGIL Susanna Camusso e le ha chiesto se ci sono spazi per un cambiamento nei rapporti con l'esecutivo. Questo governo finora ha dimostrato di non voler aprire concretamente con le organizzazioni sindacali una discussione. La stessa scelta di ieri del ministro Sacconi di convocare le parti dopo che il governo aveva già presentato gli emendamenti e di agire per emendamento su una cosa così delicata come il sistema pensionistico è una dimostrazione non solo di non relazione con il sindacato, ma anche di un'idea che di pezza in pezza si disfano i sistemi e le strutture del sistema senza che ci siano le soluzioni adeguate. Per un altro verso, noi ieri abbiamo apprezzato la disponibilità del ministro Tremonti a ragionare sul fatto che a un anno dalla crisi il problema dei disoccupati diventa fondamentale, che bisogna procedere ulteriormente ad articolare le questioni degli ammortizzatori, e se le cose che sono state dette hanno senso, come gli è stato già detto ieri, la CGIL è pronta al confronto con qualunque governo. Ecco, sulle pensioni l'intesa sembra davvero difficile. Quali sono le ragioni fondamentali del no della CGIL alle proposte del governo? Il governo ha, con questi interventi, da un lato fa degli interventi che appaiono minimali ma che in realtà intervengono pesantemente nel sistema, peraltro costruiscono delle ulteriori diseguaglianze, non affronta le 2 questioni che andrebbero affrontate. Essendo il sistema pensionistico in equilibrio, cioè non avendo noi nessuna emergenza sul sistema, la prima è quella che bisognerebbe trovare e costruire le condizioni perché le persone possano liberamente governare il loro momento pensionistico anche in ragione delle loro condizioni. Quella che era la flessibilità già prevista dalla legge Dini e che a nostro avviso va reintrodotta. Il secondo punto è che così come è costruita questa norma, con il secondo intervento rispetto all'aspettativa di vita, perché il primo sta nei coefficienti e il secondo sarebbe questa finestra mobile dal 2015, in realtà non si ha nessuna idea che se si continua così a gestire il sistema, per i giovani si sta costruendo una prospettiva di un sistema pensionistico che non ha nessuna credibilità e nessuna tenuta. In più il meccanismo del contributivo, che ormai riguarda gran parte anche dei lavoratori che escono, essendo strettamente legato al prodotto interno lordo, avrà un elemento di diseguaglianza straordinario tra chi avrà il peso del deficit del 2009 rispetto a chi magari appunto avrà lo zero del 2010. E questo era il segretario confederale Susanna Camusso, segretario confederale di CGIL, intervistata da Paolo Piacenza. Ad un anno di distanza dall'avvio della cosiddetta operazione antifannulloni, le assenze per malattia della pubblica amministrazione sono drasticamente diminuite, lo ha annunciato questa mattina il ministro Brunetta. Paola Cavadi, tu hai seguito questa conferenza stampa del ministro, insomma, quali dati sono emersi? Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno ai nostri ascoltatori. Per il ministro Brunetta si tratta di un bilancio eclatante. In un anno i dipendenti della pubblica amministrazione hanno lavorato 14 milioni di giornate in più. Il calo medio delle assenze per malattia, se si escludono i comparti scuola, università e pubblica sicurezza, è stato del 38%. E la campagna del ministro contro l'assenteismo fa il paio con quella per la trasparenza nella pubblica amministrazione. Da oggi, per effetto di una circolare ministeriale, è obbligatoria la pubblicazione online dei dati di circa 190.000 dirigenti. Significa in sostanza che si potrà avere accesso a curricula, dati sulle retribuzioni, recapiti telefonici degli uffici, nonché ai dati sulle assenze o le presenze nel posto di lavoro. Ma sentiamo le parole del ministro Brunetta. Tutti i cittadini avranno la possibilità di dire: vado nell'ospedale Tizio, mi cura il medico Caio, voglio sapere chi è il medico che mi cura. Invece che chiedergli il curriculum, batte sul suo computer il nome del medico, saprai tutto. Naturalmente, benissimo per i bravi, un po' meno bene per i meno bravi. A settembre si conosceranno le liste complete degli uffici che si sono adeguati e di quelli che invece non l'hanno fatto. Brunetta ha comunque promesso fulmini e saette contro eventuali violazioni. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Paola Cavadi, la linea va a Vincenzo Miglietta per fare il punto su il DPF, lo sappiamo, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e sono emersi, diciamo, anche degli sgravi fiscali per le piccole imprese. Vincenzo, facciamo il punto. Sì, buongiorno, è così varato il DPF e con il decreto anticrisi all'esame del Parlamento, governo e parti sociali proseguono i loro contatti per mettere a punto quelle misure enunciate a livello di obiettivi di medio periodo proprio nel documento di programmazione economica e finanziaria. Il caso dell'accordo Confindustria, Ministero del Tesoro, con gli interventi in favore delle imprese, la prima novità riguarda la detassazione degli aumenti di capitale. Lo sconto fiscale funziona nel seguente modo: sugli aumenti di capitale fino a 500.000 euro le aziende potranno detrarre dall'IRES fino al 3% per 5 anni. L'obiettivo è rafforzare patrimoniale delle aziende. La novità va incontro alle richieste degli industriali e rientra nella strategia più generale di aiuti alle imprese strette dalla difficoltà nel ricorso al credito. Altro capitolo, lo stop dei debiti per un anno. Si tratta di fatto di una moratoria che riguarda i rimborsi del capitale e non il pagamento degli interessi. È polemica intanto nelle commissioni bilancio e finanze della Camera, dove è in discussione proprio il decreto anticrisi e nel quale il governo ha inserito lo scudo fiscale, una mini stretta sulle pensioni e la regolarizzazione per colf e badanti. Una procedura questa criticata dalle opposizioni. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. C'è un'ultima ora che riguarda Benedetto XVI. È terminata l'operazione per la riduzione della frattura al polso del Papa. Tutto è andato bene, lo ha riferito poco fa il presidente della regione Valle d'Aosta. Adesso invece andiamo all'ultima tappa del nostro approfondimento sulle novità del processo civile entrato in vigore il 4 luglio scorso, novità che hanno lo scopo di accorciare i processi e sveltire la giustizia. Oggi andiamo in un altro tribunale, quello di Milano, dove il presidente Livia Pomodoro ha convocato una riunione proprio ieri pomeriggio con tutti i presidenti delle sezioni civili, appunto per fare il punto della situazione. L'ha intervistata Anna Marino. Dobbiamo rivedere alcuni meccanismi organizzativi, per esempio quello relativo agli albi dei consulenti, che richiederà maggiore attenzione da parte nostra per arrivare poi ad avere tutti una valutazione che consenta, affrontate le sessioni e tutte possono dare consulenze senza che l'una sappia dell'altra. Invece faremo un sistema circolare di informazioni per quanto riguarda altre questioni che sono più tipicamente procedurali. Evidentemente dovremo vedere come organizzare il nostro lavoro nel quotidiano, per esempio per quanto riguarda il calendario delle udienze. I giudici dovranno attrezzarsi e fare in modo che sia effettiva la loro capacità di calendarizzazione delle udienze. Faremo anche una rilevazione dei processi che già sono da più lunga data, ma non sono moltissimi, presso il Tribunale di Milano, e a questi daremo un'accelerazione o una priorità. Quindi andrete anche oltre le novità che riguardano appunto la riforma del processo civile? È uno stimolo per fare in modo che sul processo civile ci sia una rinnovata attenzione, ma questo è anche intendimento degli avvocati che con noi lavoreranno su questo piano. Giulia Crivelli, purtroppo oggi non abbiamo tantissimo spazio per la rassegna stampa internazionale. Abbiamo tra l'altro lungamente parlato degli attentati che ci sono stati a Giacarta e di quanto sta accadendo in Iran. Insomma, abbiamo parlato molto di quanto sta accadendo all'estero. Però, insomma, abbiamo il tempo per almeno un paio di segnalazioni. Wall Street Journal. Sì, Wall Street Journal. Buongiorno, torna su un argomento di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse, che sono gli stipendi dei banchieri. Grandi banchieri che ora in stagione di trimestrale e di bonus tornano alla ribalta, perché come passata la grande bufera, alcune grandi banche, Goldman Sachs, adesso tra poco JP Morgan, ricominceranno a elargire questi grandi bonus. E quello che si chiede per legge, c'è cioè un'iniziativa di legge nel Regno Unito ed è la notizia di prima pagina del Wall Street Journal, è che a questo punto si metta, come per i calciatori o come per i giocatori di basketball negli Stati Uniti, un salary cap, cioè più di tanto non possono prendere questi banchieri e i bonus devono essere ragionevoli. Poi naturalmente si tratterà di capire che cosa significa ragionevole, però è come tutto dire, molto relativo, sì, Giulia, esatto, in questo campo. Esatto. È per non tornare, ecco, proprio subito all'andazzo a cui ci avevano abituato, che insomma non ha avuto poi una felice conclusione. Passiamo invece alle Figaro, perché ci parla di una notizia sportiva che tra l'altro devo dire è presente anche sui nostri quotidiani, sulle pagine sportive dei quotidiani italiani, ma anche sulla Gazzetta dello Sport. Sì, per i francesi è forse ancora più importante, perché stasera credo tutti sintonizzati dalle 7 in poi per vedere questo grande meeting che c'è a Parigi di atletica leggera. Il protagonista sarà Usain Bolt, il giamaicano con la sua mise gialla e verde allegrissima, lo ricordiamo che danzava felice dopo aver battuto il record sui 100 metri, ha il record del mondo in questo momento, 9 secondi e 69 decimi per percorrere 100 metri, e questa sera spera di batterlo. Grazie Giulia Crivelli, con te ci risentiremo naturalmente lunedì come sempre. Ora una buona notizia che ci riguarda da vicino, cioè riguarda da vicino noi di Radio 24, perché il premio giornalistico assegnato da Sovetro per quanto riguarda la sezione radio è stato assegnato alla nostra collega Laura Bettini per una puntata di Respiro, ve lo ricordiamo, la rubrica dedicata ai temi ambientali in onda il sabato alle 16:30, puntata dedicata ad una vetreria che produce vetro attraverso il riciclo di bottiglie. Laura, allora innanzitutto complimenti, ma come va il riciclo del vetro in Italia? Grazie mille, va benissimo a quanto pare. Pensate che secondo gli ultimi dati 2 bottiglie su 3 in Italia vengono riciclate, questo con ovvi benefici ambientali, perché non vengono smaltite in discarica, perché si risparmiano le emissioni le emissioni di CO2 che ovviamente ci sarebbero se si dovesse scavare nelle cave per prendere la materia prima, benefici insomma in generale anche economici, perché questo vale ed è importante dirlo. In generale il comparto del vetro in Italia viaggia tutto sommato bene, c'è stato un lieve calo per quanto riguarda la produzione del vetro piano, cioè sarebbero le lastre, però un aumento di produzione per quanto riguarda il vetro cavo, cioè per l'appunto le bottiglie, i flaconi, il vetro artistico e così via. Questi sono i dati dello scorso anno. Questa sera qui a Capri, dove adesso mi trovo proprio per questo premio di cui tu parlavi, forse ci saranno altri dati, quelli che riguardano questo periodo di crisi. Vedremo se la crisi ha colpito o meno anche il settore del vetro. Estate, tempo di festival. Come si sa, nel periodo compreso più o meno fra maggio e settembre si concentrano la maggior parte dei festival in Italia. Festival di tutti i tipi, dai festival che parlano di letteratura, di libri, di poesia, ma poi parlano anche di filosofia, di matematica, di economia, insomma ce n'è per tutti i gusti. E siamo andati a vedere come stanno reagendo questi festival al periodo di crisi. Lo facciamo con Guido Guerzoni, che per la seconda volta ha curato una ricerca che si chiama Effetto Festival. Buongiorno Guerzoni. Buongiorno. La prima volta avevamo visto un po' gli effetti del festival, gli effetti economici riferiti al 2007, ma nel frattempo, ahimè lo sappiamo, c'è stata di mezzo la crisi. Allora, quanto i festival italiani stanno soffrendo per il periodo di crisi? Nell'aggiornamento della ricerca abbiamo somministrato un ricco questionario a 31 dei più importanti festival di approfondimento culturale. Dall'analisi, che ha tenuto conto di 20 edizioni tenutesi nel 2008 e di 11 che si sono già tenute nei primi mesi del 2009, sono emersi alcuni fattori. La crisi sicuramente ha morso, questo era largamente prevedibile, meno sull'edizione del 2008, che si avvalevano di budget deliberati nel 2007, dunque prima dell'inizio prima della crisi. Crisi, certo. Mentre invece le edizioni del 2009 sono già state toccate, perché la programmazione ha fatalmente risentito di una serie di... In media, ecco, quanti festival hanno dovuto diminuire il budget? Allora, il 60% dei rispondenti ha comunque affrontato dei tagli. Ecco, in media quanto bisogna investire per organizzare un festival, dal piccolo a naturalmente quelle più importanti? I festival variano. Il dato medio di quest'anno parla di un budget che oscilla attorno ai 380.000 euro contro i 450.000 registrati 2 anni fa. Si tratta cioè di una riduzione in linea con le dichiarazioni degli organizzatori, che parlano di riduzione nell'ordine di un 20-25%. Parlavamo di crisi, ma questi festival hanno anche un importante impatto economico sull'economia appunto locale. Nella sua ricerca si citano il Festival della Mente di Sarzana e quello della letteratura di Mantova. Quanto è investito per questo festival? Quanto viene investito e quali sono invece le ricadute economiche? Il Festival di Sarzana, che è stato oggetto di un'analisi specifica 2 anni fa, approfondita, ha un budget di circa 400-450.000 euro e genera un indotto di circa 4 milioni, con un rapporto in qualche modo che oscilla tra l'1,8 e 1,10 a seconda delle tecniche di computo. Un valore analogo era stato desunto per l'analisi dell'edizione del 2006 del Festival di Letteratura di Mantova. In quel caso il budget complessivo era di circa 1,5 milioni di euro e l'impatto reddituale generato nella provincia di Mantova era stato calcolato in circa 14,5 milioni di euro e circa 104 unità di lavoro a tempo pieno. Ecco, chi è che ci guadagna quindi nel momento in cui si organizza un festival? Ma ci guadagnano diverse categorie di operatori economici, questo vale ovviamente per le strutture ricettive, per l'offerta anche extra alberghiera, per i ristoranti, per molti esercizi commerciali che si trovano in qualche modo a beneficiare di un flusso di compratori nuovi. Il 70-80% del pubblico viene da fuori provincia, a volte delle ore libere che utilizza anche per fare shopping. Sostanzialmente le analisi condotte dimostrano quali sono le principali categorie economiche che beneficiano anche di questi flussi di presenza esterne. Insomma, i festival sono sempre comunque un polo d'attrazione, si va per appunto leggere i libri, incontrare gli scrittori o gli scienziati o gli economisti e poi si finisce giustamente anche per fare del turismo. Grazie a Guido Guerzoni, che ha curato anche l'edizione 2009 della ricerca Effetto Festival. Buona giornata. Grazie. E allora io vi ricordo anche alcune date dei prossimi festival: Festival della Mente a Sarzana, provincia di La Spezia, dal 4 al 6 settembre, il Festival Letteratura di Mantova dal 9 al 13 settembre, Pordenone Legge dal 16 al 20 settembre. E per 10 giorni, a partire da domani, a Cividale del Friuli, il Mittelfest, un festival culturale nato nel 91 come osservatorio della scena artistica fra Europa occidentale e orientale dopo la caduta del muro di Berlino. Un programma ricco di teatro, musica e danza, come spiega il presidente del Mittelfest, Antonio Devetag, scusatemi, al microfono di Adriana Fracchia. Abbiamo degli spettacoli di cosa prodotti da noi e dopo c'è tantissimo, un straordinario direi cartellone per quanto riguarda la danza e per quanto riguarda la musica. Poi ci sono questi incontri che riuniscono un po' i protagonisti ma anche i commentatori più prestigiosi di quello che avvenne 20 anni fa, anche attraverso aneddoti, anche attraverso retroscena finora sconosciuti. E la terza direttrice è quella turistico ed enogastronomica, che abbiamo potenziato quest'anno perché Cividale è la terra di tesori assolutamente straordinari ma anche spesso sconosciuti per quanto riguarda i vini e per quanto riguarda i cibi, unendo così in un matrimonio immaginario cultura e la cultura enogastronomica. Inizia oggi a Roma la 13ª edizione dei mondiali di nuoto, che proseguirà fino al 2 agosto. I primi ad entrare in acqua sono gli atleti dei tuffi. Le gare di oggi sono la piattaforma da 10 metri per gli atleti e il trampolino da 1 metro per gli uomini. La cerimonia di inaugurazione però è prevista per domani sera con i fuochi d'artificio allo Stadio dei Marmi. E come sempre in questi giorni Dario Ricci ci sta portando in un viaggio così virtuale fra le varie discipline che verranno affrontate in questi mondiali. Oggi ci parla del nuoto sincronizzato. Roma 2009, mondiali di nuoto. La voce inconfondibile è quella di Placido Domingo, sublime interprete di E Lucean le stelle, forse l'aria più celebre della Tosca di Giacomo Puccini. Saranno queste le note che accompagneranno la prova del singolo delle azzurre del nuoto sincronizzato in acqua a Roma 2009. Fatica, atletismo, grazia, armonia, le sincronette quindi ai mondiali romani promettono spettacolo. E le azzurre andranno anche a caccia del colpo grosso, come ci spiega il CT Laura De Renzis. Le nazioni più forti al momento nel mondo sono europee e sono la Russia e la Spagna. Poi vengono un po' il Giappone, il Canada, gli Stati Uniti, noi, l'Ucraina, siamo un pochino tutti quanti lì, quindi speriamo veramente la Cina, ovviamente, dimenticavo la Cina che l'altro anno ha fatto da padrona a casa sua, noi cerchiamo di mettercela tutta veramente per fare un buon risultato. 7 le prove in calendario, con singolo, duo e prova di squadra divise tra programma tecnico e libero, oltre a un libero combinato. Programma massacrante per le sincronette, che però ai sacrifici in acqua sono abituate, sottolinea il CT. Ma il nostro è uno sport veramente molto molto faticoso e molto impegnativo, per cui c'è una base molto larga, però poi che arrivano all'elite il numero si restringe notevolmente. Calcoli che noi siamo impegnati durante la giornata una media di 8-9 ore al giorno di lavoro rispetto alle 5-6 di altre discipline, per cui insomma alla fine diventa dura riuscire ad arrivare fino ai massimi livelli. Obiettivo minimo, migliorare il settimo posto di Pechino, magari bissando il quinto ottenuto nel duo combinato a Melbourne 2007, in attesa che in un futuro prossimo a disegnare coreografie nell'acqua insieme alle ragazze non arrivino anche gli uomini. Per il CT De Renzis è più che un'ipotesi. Ma io credo che il doppio misto potrebbe essere una bella, veramente una bella sfida, una bella performance e anche un bello spettacolo da vedere, ovviamente con persone preparate, non improvvisate. Il solo maschile non lo so, non lo riesco ancora a vedere, però sicuramente l'inserimento nel doppio misto o nel libero combinato degli uomini, perché no? E c'è un aggiornamento proprio che riguarda i mondiali di nuoto di Roma. Gli italiani Nicola Marconi e Christopher Sacchin sono purtroppo fuori dalla finale di oggi pomeriggio dei tuffi dal trampolino da un metro. Si chiude qui questa edizione della GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco, al coordinamento Daniele Biacchessi e regia Peter Bescapè. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Per riascoltare la puntata, www.radio24.it. L'appuntamento è lunedì alle 13, Extra Large con Simone Spezia. GR 24, il sole 24 ore. Direttore Gianfranco Fabi.